la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, eccoci qua 16:06 primi e 51 secondi in diretta sulla versione di Oscar che lo sapete ma non lo ripeterò più, lo ripeto solo oggi, quest'anno fino a luglio prossimo invece che alle 16:30 comincia alle 16 o meglio alle 16:07, vi dico subito l'argomento della puntata. È un argomento delicato, quindi bisogna che io, ma i nostri ospiti lo faranno senza dubbio, ma io stesso per primo lo ricordo a me stesso. Devo tenere i toni bassi, bisogna ragionare perché è un argomento delicato, perché potrebbe essere altrimenti un terreno minato, perché oggi parliamo della Banca d'Italia. Parliamo della Banca d'Italia alla luce di quello che da settimane e settimane, da mesi, ma hanno iniziato a infittirsi in queste ultime settimane estive, su diverse testate di informazione, esce quotidianamente o comunque più volte alla settimana. E che cosa escono? Escono i particolari relativi alle ispezioni nel tempo esercitate dalla Banca d'Italia come suo dovere, nei poteri di vigilanza. Sapete che negli ultimi anni è cambiato qualcosa, sui maggiori istituti la vigilanza poi è formalmente attribuita alla BCE con squadre miste eccetera eccetera, per gli istituti inferiori invece resta alla Banca d'Italia. Ma sulle ispezioni di vigilanza condotte magari prima, anni prima che cambiasse l'ordinamento europeo della vigilanza per le maggiori banche, ed escono molti particolari perché escono il più delle volte dalle carte giudiziarie delle indagini, delle procure che conducono indagini dalle quattro banche risolte alla fine del 2015, tra cui la Etruria, le conducono su Veneto Banca e sulla Popolare di Vicenza. Ecco, dalle carte giudiziarie delle indagini che vanno avanti escono moltissimi particolari relativi a quello che la Banca d'Italia aveva accertato o non aveva accertato in anni precedenti alla risoluzione di quelle banche. Naturalmente tutti i particolari, visto il regime di riservatezza dell'ispezione di Banca d'Italia, che a noi e al mercato erano sconosciute. E questo è un primo blocco di questioni. Poi emergono altri particolari, perché a volte, spesso anzi, gli stessi indagati, interrogati dai procuratori, aggiungono molti dettagli alle carte su cui indagano i procuratori, rivelando, e non dimentichiamocelo, sono indagati, quindi hanno magari tutto l'interesse a farlo, però rivelando, come si capisce dai brogliacci delle loro deposizioni, che in realtà la Banca d'Italia sapeva come, sapeva da molto tempo rispetto a quello che ufficialmente la Banca d'Italia ci ha detto essere la data in cui ha appreso di molti particolari che sono stati fondamentali per la rovina di quelle banche. Per esempio le operazioni baciate, e cioè se vuoi un prestito, caro cliente, tu te lo prendi, io te lo do, ma in cambio acquisti azioni della mia banca. Le operazioni baciate per esempio alla Popolare di Vicenza. Ufficialmente lo stesso Zonin dice che non ne sapeva nulla fino a autunno inoltrato del 2015, e la Banca d'Italia più o meno dice le stesse cose, se non che negli atti giudiziari emerge che dei documenti e delle ispezioni precedentemente, secondo delle deposizioni nelle mani dei magistrati, avevano e come consegnato liste di operazioni baciate anche agli ispettori di Banca Italia. Poi c'è una terza fonte di notizie, quella per esempio che in questi giorni sta investigando il Fatto Quotidiano, che è tra le testate che più scrive su questo, ma poi ne emergono anche altri, ci sono colleghi alla Stampa, Paolucci, ci sono colleghi del Corriere della Sera, ci sono colleghi su Repubblica, quindi sono molte testate importanti che stanno tentando di capire bene questa delicata questione. Ma in questi giorni per esempio il Fatto Quotidiano si occupa delle vicende relative alla BIM, una banca torinese e piemontese che Vincenzo Consoli di Veneto Banca aveva rilevato, di cui poi bisognava disfarsi per ricapitalizzare la Veneto Banca che iniziava ad annaspare. E anche in questo caso le accuse di Daguì, uno dei personaggi fondamentali della banca BIM, agli ispettori di Banca d'Italia aggiungono particolari inediti, ignoti e di un certo rilievo. Allora, ci sono queste molte fonti che raccontano delle storie che alzano degli interrogativi pesanti. Ovviamente noi come giornalisti non ci sostituiamo ai magistrati, non ci sostituiamo alle autorità, ma la domanda diventa, poiché il vertice di Banca Italia, sapete che dal 2005 abbiamo cambiato la legge che disciplina la durata degli incarichi, in Banca d'Italia non ci sono più i governatori a vita da allora, ma l'incarico del governatore come del direttorio dura 6 anni ed è replicabile una sola volta. Ecco, dopo il mandato di Mario Draghi 2005-2011 c'è stato il mandato del governatore in corso, Ignazio Visco, ed è in questo autunno, entro novembre, che il governo deve decidere la nomina del successore di Ignazio Visco. Si fa con un decreto del capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, sentita ovviamente anche la Banca d'Italia. La novità che di questi ultimissimi giorni è che, a seguito proprio di alcuni di questi particolari che gettano delle ombre, suscitano degli interrogativi sulla qualità delle ispezioni della Banca d'Italia, sulla discrezionalità della Banca d'Italia, diciamo così, e sulla ricostruzione ex post di quando sono venuto a sapere di ciò che ha determinato poi le risoluzioni bancarie rispetto invece a ciò che sembrerebbe da molte risultanze, cioè che lo sapessero prima, il governo ha replicato dicendo: noi diamo incondizionata fiducia al governatore Visco, e molti ci hanno visto quindi la conferma del suo mandato. Questo teniamolo in un angolo. La questione adesso, cari ascoltatori, è tentare di spiegarvi meglio da parte di alcuni di coloro che questi dossier e questi particolari li maneggiano e ci scrivono, di che cosa si tratta, e poi porsi un problema: ma non è che dopo questi anni di crisi dovremmo pensare che prima del rinnovo c'è bisogno di qualcosa di più trasparente per avere un giudizio di qualità di funzioni così delicate come sono state esercitate? Perché altrimenti le dobbiamo solo demandare alle indagini penali, ma quella è un'altra faccenda. Però, allora, iniziamo col primo ospite, che appunto è chi sul Fatto Quotidiano, insieme ad altri colleghi, secondo me, rendendo un grande servizio all'informazione, giorno dopo giorno, lavorando su queste carte, cioè Giorgio Meletti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Giorgio. Grazie a voi. Allora, ovviamente il tempo per tutti i dettagli delle cose che state scrivendo non c'è, però se dovessi dire in 5 minuti d'orologio, che non sono pochissimi in termini radiofonici, le cose più rilevanti tra tutte quelle che avete scritto tra Veneto, Etruria, quelle che state scrivendo su BIM, Veneto Banca, eccetera, che hanno a che vedere con valutazioni discrezionali o forti difformità tra ciò che la Banca d'Italia ci ha detto e ciò che emerge nelle carte, come lo spiegheresti ai nostri ascoltatori? Beh, intanto c'è una cosa da dire. Diciamo, la Banca d'Italia può aver operato bene o male, aver commesso reati, come viene anche ipotizzato, o no. Ma il punto vero è che non riguarda nemmeno il problema se il governatore Visco sia bravo o non bravo da confermare o da sostituire. Perché qui c'è un problema istituzionale, normativo. Cioè, il vero, secondo me, il vero cancro del sistema della vigilanza bancaria è la sua assoluta segretezza. È una cosa che io credo abbia come unico modello storico i tribunali staliniani. La qualcosa naturalmente ha un impatto spaventoso sul mercato finanziario. Faccio solo un esempio. Pende una richiesta di rinvio a giudizio per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca. Lui ha una richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare è fissata a novembre 2017. Lui tra l'altro è imputato di ostacolo alla vigilanza. Tra l'altro, notate questo, nessuno di questi è imputato per nient'altro che ostacolo alla vigilanza, cioè non è imputato per aver fatto le baciate, per aver fatto, per aver prestato soldi agli amici o cose del genere di cui tanto si parla, è imputato per ostacolo alla vigilanza che lui ritiene di non aver commesso. E questi fatti talmente gravi da mandarlo a processo sono stati rilevati dagli ispettori della Banca d'Italia nell'estate del 2013. La cosa che io trovo gravissima è che l'ispettore della Banca d'Italia rileva fatti talmente gravi da segnalarli alla magistratura e generare poi un processo penale, però non viene detto niente agli azionisti di Veneto Banca. Eh già. Che lo vengono a sapere 4 anni dopo. Questo tra l'altro, ti segnalo, riguarda anche la Consob. C'è un caso, secondo me, strepitoso. E tutto lo stato maggiore della Consob è anch'esso in attesa di udienza preliminare. Sono rinviati a giudizio. C'è una richiesta di rinvio a giudizio sullo stato maggiore dell'UBI per fatti che sono stati, c'è un'inchiesta anche lì che va avanti da 4 anni, ma questi fatti sono stati rilevati e sanzionati dalla Consob 2 anni fa. E sono fatti che riguardano patti occulti di controllo, quindi una cosa che ha molto impatto sul titolo quotato, diciamo, ed ha grande interesse per gli azionisti. Beh, quando la Consob li ha sanzionati circa 2 anni fa, la sanzione della Consob è stata segretata. Perché c'è una legge che dice che quando la Consob sanziona qualcuno, questo qualcuno può chiedere e ottenere la secretazione della sanzione per non avere danno reputazionale. Che francamente a me, io mi metto a ridere, avevo promesso di non farlo, ma voi capite, cari ascoltatori, che la reputazione dovrebbe essere un presidio per fare il manager bancario e l'amministratore di una banca. Se noi abbiamo leggi che consentono di ripararsi dietro lo scudo della non pubblicità per sanzioni perché si è tenuto un comportamento improprio, in violazione di norme prudenziali, eccetera, eccetera, e si ha il diritto di non informarne gli azionisti e il mercato, è l'esatto opposto, il ribaltamento di che cosa dovrebbero essere i requisiti di onorabilità di un banchiere. O no, Giorgio? Ribaltamento. Cioè, sì, tra l'altro, no, questa cosa ha un dettaglio, se vuoi, surreale. Questa notizia io la prendo dal bilancio dell'UBI, che scrive nel bilancio a beneficio, diciamo, dei suoi azionisti e della società italiana nel suo intero, scrive che è stata fatta una sanzione contro esponenti dell'UBI da parte della Consob, ma in base alla legge noi ci avvaliamo del diritto di non farvi sapere chi sono, che cosa hanno pazzesco, fatto. Vabbè. E questo, l'azionista legge questa cosa nel bilancio e dice, vabbè, speriamo bene. Questo vale anche per il caso della BIM, che riguarda direttamente la Banca d'Italia. Beh, nel 2015 Dagui cerca di ricomprarsi la sua banca, che aveva venduto a Veneto Banca, cerca di ricomprarsela da Veneto Banca. E la vigilanza, Banca d'Italia e BCE, che non, poi sono, diciamo, non si capisce mai chi è responsabile di che cosa, ma insomma la lettera formale della BCE gli nega l'autorizzazione ad acquisire questa banca. Questo lo sappiamo adesso perché è tutto segretato. Viene negata l'acquisizione perché, diciamo, tra le varie cose, a Dagui viene accusato di non avere i requisiti di onorabilità e correttezza che uno ti affida a una banca. Benissimo. Il problema è che questo, e lui è, c'è un resoconto del fatto che pare, leggendo questa lettera segreta, che lui ne abbia fatte quante Carlo in Francia. E il problema anche qui, si parla di sanzioni date nel 2009, a partire dal 2009, per cose considerate gravissime, nel 2013, di processi penali, vabbè. E di tutto questo, un'altra volta, la BIM è quotata in borsa, agli azionisti della BIM nessuno ha mai detto niente. Non era stato detto nulla. Niente, cioè il signor Daguì, dice la Banca d'Italia, stava distruggendo la banca, cosa che lui contesta, ma non è questo il punto. Secondo la Banca d'Italia ritiene di aver accertato attraverso i suoi ispettori che Daguì stava distruggendo la BIM, tanto che Visco, il governatore, con una lettera segreta, ordina segretamente di mandarlo via. Lui viene mandato via, nel senso che a un certo punto si dimette e gli azionisti non sanno che è stato mandato via perché sta sfasciando la banca. Uno dice, vabbè, dimmelo che magari vendo le azioni. Allora, io ci dico subito, c'è un ascoltatore che mi dice, Giannino, non capisci nulla, le questioni di riservatezza si devono all'articolo 47, la stabilità del sistema bancario è un presidio della tutela del risparmio. Scusate, signore, se dopo tanti anni alle nostre spalle e tutte queste banche marce, il conto è stato fatto in agosto, sono 34 miliardi di euro tra le quattro risolte, le due venete eccetera, e ripeto, quei 34 miliardi sono i valori residui della risoluzione. Se incorporassimo il valore per cui il titolo di Veneto e Vicenza fatto a tavolino è stato tenuto per anni, bisognerebbe aggiungerci altri 11 miliardi. Ma se dopo 34 o 45 miliardi ancora qualcuno di voi pensa che la stabilità del sistema si regga grazie al segreto e alla totale discrezionalità, ma cosa abbiamo capito, cari ascoltatori, della storia di questi ultimi 2 anni e mezzo di crisi bancaria nel nostro paese? Questa è la mia opinione, ma sono in linea su questo con quella di Giorgio Medetti. Resta lì, Giorgio, si è aggiunto Andrea Greco, inviato di Repubblica, il cui libro sulle banche impopolari, insieme a un coautore di Repubblica ed esperto, non a caso ho scelto Andrea Greco perché esperto di giudiziaria, abbiamo parlato più volte nella mia trasmissione prima della pausa estiva, anche ai conti della Belva. Perché ho chiesto a Andrea Greco di venire? Per fare la stessa domanda a Giorgio Meletti, ma con un'aggiunta, perché anche in questi ultimi giorni c'è stata una novità che riguarda, per esempio, un'altra banca popolare che non è risolta, ma sulla quale molti di noi che da anni ne seguono le cronache hanno dei pesantissimi interrogativi, sui quali però la vigilanza ci ha sempre detto picche, ci ha detto sempre che tutto andava bene. Io ho fortissimi dubbi su molte questioni. Sto parlando della Popolare di Bari, di cui abbiamo appreso in questi ultimi giorni che ci sono 4 indagini penali che riguardano anche lì la saga della famiglia Iacobini, che da sempre, diciamo così, la gestisce e la controlla. E proprio alla Popolare di Bari, alla saga degli Iacobini, era dedicato uno dei capitoli del libro di Andrea Greco, Banche Impopolari. Grazie di essere con noi, Andrea. La stessa domanda che ti faccio a te è: dovessi dire in 5 minuti ai nostri ascoltatori, per la Popolare di Bari come per tutto il resto, che cos'è di più rilevante che ti ha colpito secondo te di ciò che non sapevamo e che emerge dalle indagini in relazione alla discrezionalità e alla segretezza delle ispezioni di vigilanza della Banca d'Italia? Andrea. Allora, intanto buonasera Oscar Giannino, buonasera a Meletti, al collega Meletti e a tutti quelli che hanno la bontà di seguire la vostra interessante trasmissione. Mi piace citare nei saluti anche Franco Vanni, che certo, è autore del nostro libro Banche Impopolari, e che è come fosse qui con me, perché ho diviso quest'anno di lavoro con lui per fare il nostro libro. Il capitolo sulla Bari è effettivamente si intitolava I travagli della Popolare di Bari, e non era difficile preconizzarli. Le inchieste per ora, è difficile parlare di quello che emerge dalle inchieste, perché bisogna aspettare che siano depositate le carte e bisogna che le inchieste facciano il loro corso. Quello che già si può dire, a mio avviso, è che la saga della Popolare pugliese, che non dimentichiamo è la più importante banca rimasta nel Mezzogiorno, soprattutto in un momento in cui con la liquidazione delle due banche venete, stanno di fatto scomparendo dentro al calderone di Intesa San Paolo e in parte dentro quello ancora più caldo della liquidazione, Banca Nuova e Banca Puglia, che erano i due istituti creati per le desideri di grandezza dalle passate gestioni delle popolari venete di Zonino e di Consoli. Quindi è ancora più importante il ruolo della Popolare di Bari come motore della crescita del credito. Avvicinati al microfono perché si sente un po' basso. nel Mezzogiorno, dicevo, è ancora più importante, tuttavia è una, ha davanti un futuro che rischia di essere piuttosto incerto. I contorni di quelle inchieste che stanno esplodendo in quattro procure su cinque diversi filoni sembrano un po' gli stessi che arrivano ex post a sancire, no, come ultimo ma inesorabile potere, quello della magistratura, i casi di cattiva gestione degli istituti che abbiamo visto finora, li avete menzionati prima, ce ne sono stati pure troppi negli ultimi 2 o 3 anni, ma ne sono stati, leggevo, ben 35 negli ultimi 18 anni. Quindi l'associazione in gruppo ai reati, la truffa, ostacolo alla vigilanza e i prospetti delle comunicazioni sociali non veritiere. E noi nel nostro libro Banche Impopolari, una cosa che abbiamo notato e che è stata particolarmente stramba, se si può dire, sulla Popolare di Bari, è una governance più imperniata sul modello familiare, di gestione delle risorse familiari, che non su un modello di un istituto che soprattutto negli ultimi anni, dopo aver acquisito circa 20 banche più piccole a livello locale, era diventato un leader regionale sulla dorsale adriatica del Mezzogiorno. In tutto questo la Banca d'Italia come autorità di vigilanza, e ricordo che lo è ancora, perché Popolare di Bari non è soggetta, non è passata, non è tra le banche più grandi passate sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea. In tutto questo, dicevo, la Banca d'Italia ha avuto, vedremo che ruolo, e speriamo che la commissione di inchiesta bicamerale e le numerose procure possano fare luce sull'efficacia e sull'incisività della vigilanza della Banca d'Italia su Bari, ma già un errore, già un limite strategico noi l'abbiamo potuto notare, ed è quello che è valso per tante popolari di puntare su un singolo uomo forte o il meno debole o il meno peggio a livello locale, e nel caso della Puglia è stato sicuramente Marco Iacobini, cui non a caso è stato demandata l'acquisizione di numerosi istituti in difficoltà, tra cui la Tercas, la Cassa di Teramo, che era veramente in condizioni di decozione e che è stata comprata da Bari, se non che la Bari, che già non era una banca particolarmente brillante, con questa acquisizione si è messa in condizioni patrimoniali e di redditività piuttosto difficili. Piuttosto difficili. A dire la verità, questo mi prendo io la responsabilità di dirlo, io e altri colleghi hanno pensato in questi ultimi anni che ci fosse, lo dico solo in termini di impressione, l'impressione di una eccessiva benevolenza da parte della Banca d'Italia, anziché la Popolare di Bari fosse sotto la mano benevolente proprio della Banca d'Italia, e che solo così si spiegasse il fatto che un'operazione a cui la Banca d'Italia teneva verso la BCE moltissimo, Tercas, perché è stato un primo scontro tra i criteri europei e quelli italiani, vinse la Banca d'Italia, fosse fatta con la Bari. Le GACS hanno avuto una sperimentale, la prima attuazione, cioè le garanzie pubbliche a Bari, e il superamento del meccanismo dei prezzi bloccati delle banche popolari, fatti a tavolino che non corrispondevano al valore della banca, con tanti azionisti bloccati per non poter più uscire e magari gli amici degli amici che invece riuscivano a liquidare. Ha avuto la soluzione del primo mercato secondario, diciamo così, vigilato per far prezzo con la Bari, cioè tutta una serie di decisioni che ci facevano grattare la testa. Però, per carità, vedremo. Io faccio a entrambi la stessa domanda, comincio con Andrea Greco. Secondo te, per procedere, dopo anni come questi, ma traendo lezione da questi anni e da tutta questa segretezza, discrezionalità che apprendiamo solo poi dalle indagini penali, Non sarebbe il caso di immaginare che, per esempio, prima della nomina di nuovi governatori, ma in questo caso non ce l'ho con Visco in particolare, dico come norma particolare, dopo la modifica delle norme del 2005, non bisognerebbe immaginare una valutazione, un assessment indipendente delle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d'Italia? Perché i report di valutazione indipendente di funzioni di vigilanza in alcune banche centrali ci sono. Andrea Greco che direbbe a una riforma di questo tipo? Ma sicuramente potrebbe essere un'idea efficace se ben disciplinata. Il problema è sempre, e non siamo i primi a dirlo, chi controlla il controllore, no? Perché quando è stata fatta la riforma della Banca d'Italia nel 2005 c'era un clima poco positivo nei confronti dell'istituzione, che ha una sua storia anche gloriosa. Le vicende, tra l'altro proprio di un banchiere popolare, Gian Piero Fiorani, e del suo nume, Antonio Fazio, avevano portato alla defenestrazione del precedente governatore, dell'allora governatore, e quella riforma fu di fatto anche un tentativo della politica di mettere bocca sulla leggendaria autonomia della Banca d'Italia, che comunque va preservata come un valore, almeno dal governo di turno. In tutto ciò, Matteo Renzi, ad esempio, alla fine del 2015, nel suo momento forse di maggiore forza politica, almeno finora, poco dopo che aveva vinto con il 41% le elezioni europee con il PD, e poco prima di fare per decreto proprio la riforma delle banche popolari, con un tratto di penna ha cancellato decenni di resistenze, di abusi, di cattive condotte, anche sulla governance appunto di questi istituti, Matteo Renzi ci aveva provato a annunciare il riordino delle authority e a mettere di mezzo l'ANAC, l'autorità anticorruzione, come arbitro, se vi ricordate, nei rimborsi per le quattro banche ponte, per le truffe o comunque per l'azzeramento degli obbligazionisti sulle banche ponte. Purtroppo c'è sempre una grande stratificazione istituzionale in questo paese e c'è sempre una scarsa incisività e una forza di inerzia delle istituzioni che fa sì che non si sia mai riusciti ad arrivare a una riforma vera. Comunque il rischio di mettere un'autorità terza è sempre quello, io la metto di dare nelle mani del governo di turno tosta di te. Io ho avuto l'impressione un Renzi che ci ha provato all'inizio ad alzare, a far capire che insomma non si identificava con la posizione della Banca d'Italia, poi sconfitto di fatto. E secondo me poi nel libro Avanti, che è uscito prima dell'estate, la polemica retrospettiva contro Banca d'Italia non ha aiutato, perché un Presidente del Consiglio su un tema così delicato o agisce attraverso atti istituzionali quando è Presidente del Consiglio, o dopo fare polemica secondo me non è molto appropriato. In realtà credo che abbia finito per essere una specie di boomerang, un autogol che ha rafforzato, ove fosse da sanzionare il comportamento della Banca d'Italia, l'ha rafforzata la Banca d'Italia invece che indebolirla. Questa è la mia opinione. Intanto, allora, grazie Andrea Greco, adesso andiamo alla borsa, dopodiché faccio la stessa domanda, ricominciando con Giorgio Benetti che resta con noi, e ci raggiunge poi un terzo ospite, cioè il professor Angelo Baglioni, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano e ha negli anni scritto moltissimi articoli sulla Banca d'Italia, sulla voce.info. Intanto, le notizie da borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Molta pubblicità, mi fa piacere, vengo valutato negli ascolti molto su, e quindi, però insomma, tanta pubblicità davvero. E allora rifaccio la stessa domanda che avevo fatto Andrea Greco a Giorgio Meletti. Tu saresti favorevole, come procedura standard da introdurre anche nella nostra banca centrale, un assessment affidato a indipendenti, una valutazione da parte di indipendenti, tra le altre cose soprattutto su quelle di cui stiamo parlando adesso, su come sono state esercitate le funzioni di vigilanza affidate alla Banca d'Italia? Tu che dici? Beh, dico sì, ma dico che non basta. Cioè, il problema qui non è, diciamo, la qualità o la correttezza del governatore. Qui siamo al di là. E quello che non va è il sistema. Vanno cambiate le regole, perché qui diciamo, l'indipendenza della Banca d'Italia si è trasformata con tutta evidenza nell'esercizio di un potere arbitrario e senza nessun controllo. L'altro aspetto è quello della segretezza. Faccio solo un esempio. Si scrive una lettera segreta a Banca Etruria e gli si dice non sei più in grado di andare avanti da sola, fonditi con un'altra banca più solida, stai messa male, e poi si raccomanda però di rimpolpare il patrimonio emettendo titoli sul mercato, chiedendo soldi al retail, cioè all'indistinto risparmiatore, senza dirgli che quei soldi la banca li chiede perché sta per fallire. E questa è una cosa, voglio dire, il sistema attuale del resto ha dato prova di sé e vediamo i risultati. Dentro la segretezza è vero che la riservatezza garantisce la possibilità, per carità di Dio, però guardiamo dove finisce, cioè quali sono i risultati di questa riservatezza. Posso fare un altro rapido esempio. Si scrive una lettera segreta alla banca intermobiliare, alla BIM, e gli si dice di cacciare l'amministratore delegato perché tra le altre sue colpe c'è quella che non obbedisce agli ordini della controllante. Notate che la controllante è Veneto Banca, che non è quotata, mentre la BIM è quotata. Questa cosa che la Banca d'Italia ordini a una società quotata di integrarsi maggiormente, come scrive il governatore Visco nella lettera segreta, con uno degli azionisti, con l'azionista di maggioranza. E va bene. Dopodiché, pochi mesi dopo, mentre i manager, gli amministratori della BIM sono impegnati da questo ordine perentorio di integrarsi con Veneto Banca, lo stesso governatore scrive a Veneto Banca di vendere la BIM al più presto, sempre tutto segreto. E noi, pensate il mercato, uno va in borsa e si compra le azioni della BIM senza sapere che la BIM deve integrarsi con una capogruppo a cui è stato dato l'ordine di venderla. Io devo dire la verità, Giorgio, ti ringrazio gli esempi perché sono molto concreti e soprattutto facilmente comprensibili anche chi non è un addetto ai lavori. E con questo tono calmo con cui ve lo stiamo spiegando, perché io so che questo è un tema delicato anche per il mio editore, che ci prega sempre su questi temi di non fare casini. Guardate però, caro editore e cara imprese, lo facciamo per tutti, cioè la trasparenza nel mercato è un aiuto per tutti, per la solidità degli istituti bancari, per la tutela del risparmio, per distinguere tra investitori istituzionali e risparmiatori ordinari, cosa che con le obbligazioni bancarie che tanto sono piaciute ai nostri regolatori non si è fatto per anni, poi se ne è pagato il conto. Detto tutto questo, questo regime di discrezionalità segreta è una roba incompatibile con gli obblighi di informativa al mercato. Questa è l'opinione di Giorgio Meletti, l'opinione mia, l'opinione di Andrea Gadreco, di qualche giornalista che si occupa di queste faccende. Lo facciamo nell'interesse della stabilità e solidità, non lo facciamo perché ci paga qualcuno per parlare male. No, ecco, questa è però un'opinione forte e quindi io ho deciso di parlarne esplicitamente di queste cose qua. Io non mi sento un teppista dell'instabilità finanziaria, spiegando ai miei ascoltatori, facendo spiegare da chi ha le carte in mano, quanto numerosi, quanto gravi, quanto significativi siano gli esempi che abbiamo appreso solo grazie alle indagini penali. Questo è il punto incredibile, proprio per la solidità degli intermediari finanziari, soprattutto poi quelli quotati. Lasciamo perdere. Allora, abbiamo rapidamente un nostro ascoltatore e poi sentiamo l'opinione del professor Baglioni. Un nostro ascoltatore che ci chiama dalla provincia di Padova, Piero. Piero. Oscar. Eccoci. Mi senti? Ciao. Sì. Grazie dell'intervento. Io ho avuto un'esperienza di 2 anni in consiglio di una piccola banca qui locale e sono entrato dopo una ispezione della Banca d'Italia che si è conclusa con la cacciata di tutto il consiglio, l'invito a nominare nuovi consiglieri e una relazione da cui risultava che le coperture dei crediti andavano bene, erano al 34% nel 2014. E poi è tornata Banca d'Italia un anno e mezzo dopo, per dire che bisognava portare quelle coperture al 62%, cosa che ha compromesso ovviamente la stabilità patrimoniale della banca, che è stata assorbita da Banca Sviluppo, e tutte le sofferenze sono state cedute al fondo di garanzia, che quindi se l'è presa in corpo. Quindi in sostanza io quello che ho potuto vedere, al di là delle mille porcherie che avvengono alle banche finché uno non ci va dentro non può neanche immaginare, ma la Banca d'Italia fa due ispezioni, dice che va tutto bene salvo cambiare il board perché è troppo colluso con col territorio. Non andava troppo tutto così bene, ma non andava tanto bene come non andavano bene le banche nel 2014 o non vanno bene oggi, però nessun segnale forte, tanto è vero che è una delle poche banche di credito cooperativo che non viene commissariata. Qui nel Veneto su 30 9 sono state commissariate, quella no, tutto bene, bella, un patrimonio molto solido eccetera. Il patrimonio è stato spazzato via nel momento in cui sono tornati gli ispettori a dire bisogna coprire al 62%. Ovvio che coprire al 62% le sofferenze dalla sera alla mattina vuol dire 20-24 milioni, non ricordo più, di capitale, tolto il quale la banca non stava più in piedi. Ma quello che a me scandalizza è la seconda. Piero, attenzione che questo si incardina, cioè Banca d'Italia ha tentato in tutti i modi, ha combattuto una grande battaglia pubblica in questo caso, io gliene rendo atto. Io ero in disaccordo sul tentativo di difendere tassi di copertura del deteriorato, ma in generale poi del past due e degli unlikely to pay, cioè di tutto ciò che sta nella pipeline per diventare poi deteriorato, che erano diversi da quelli riconosciuti dal mercato. Su questo c'è stato un braccio di ferro incredibile, l'ABI, Patuelli, tutte le grandi banche hanno tentato di dare ragione alla Banca d'Italia, tranne il fatto che poi abbiamo esitato con valutazioni intorno a 20-21 di nominale su 100 di nominale, quindi avevamo ragione noi a dire guardate che è una battaglia di retroguardia, a dire la verità. Grazie anche per il nostro ascoltatore, adesso abbiamo il traffico e poi il professor Baglioni. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci, tornati in diretta con il nostro ultimo ospite, che io leggo da anni sulla voce.info, non solo sulla voce.info, il professor Baglioni, lo ripeto, insegna economia politica alla Cattolica di Milano. Sui temi della banca e della Banca d'Italia, della vigilanza, di tutto ciò che è venuto in questi anni, trovate molti suoi articoli se andate sul sito della voce.info, e a lui chiedo una riflessione finale dal suo osservatorio. Noi abbiamo passato questa ora a tentare di ricordare con toni pacati da giornalista i tantissimi episodi, o almeno alcuni dei più rilevanti, che nei fascicoli giudiziari delle indagini penali in corso per la vicenda delle banche venete, delle quattro banche risolte, adesso la Popolare di Bari eccetera, apprendiamo da giornalisti solo attraverso le carte giudiziarie relative o a nozioni che gli ispettori della Banca d'Italia avevano di operazioni improprie in tempi molto diversi da quelli che nella ricostruzione ufficiale risultano, oppure perché sono degli indagati che quindi magari hanno l'interesse ad adulterare le acque, a dire no, io gliel'ho detto alla Banca d'Italia anni prima ed è successo tutt'altro rispetto a quello che dicono eccetera eccetera. Ma la domanda è: tutta la segretezza che continua a caratterizzare, abbiamo visto persino i soggetti che sono irrogati di sanzioni hanno il diritto di non informarne se fanno i banchieri, gli azionisti, il mercato, c'è scritto nei bilanci, ma siamo stati sanzionati, ma non abbiamo la facoltà di non dirvi chi. Ma tutto questo regime non è da rivedere, professor Baglioni, lei che dice? Ma sicuramente è da rivedere, e da questo punto di vista qualche speranza, diciamo, viene dal passaggio che c'è stato un paio d'anni fa della vigilanza dalla Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea. Diciamo che la Banca d'Italia ha proprio, come avete detto voi, insomma, nella sua tradizione, nella sua cultura, quella della riservatezza, di ripararsi dietro il segreto d'ufficio. Questo andava bene, diciamo, a parte che non andava tanto bene neanche allora per i motivi che avete detto, ma diciamo che forse poteva in qualche modo essere sostenuto nel vecchio mondo, dove i risparmiatori erano completamente garantiti. Adesso i risparmiatori dall'entrata in vigore della nuova direttiva, la Bank Recovery and Resolution Directive, quindi dal 1 gennaio del 2016, i risparmiatori, come noto, non sono più completamente protetti. Sappiamo benissimo che il burden sharing, il bail-in, possono mettere a rischio le obbligazioni subordinate, ma potenzialmente anche le obbligazioni normali e nei casi più gravi, anche se finora non è mai successo, anche i depositi sopra i 100.000 euro. Quindi siamo in un mondo completamente diverso dove è necessaria molta più trasparenza. E quindi ben venga da questo punto di vista l'iniziativa recente della Banca Centrale Europea, che ha detto che dall'anno prossimo anche le banche minori, anche quelle cosiddette meno significative, quindi quelle che sono sotto la supervisione diretta delle autorità nazionali, anche per quelle banche dovranno esserci delle ispezioni, quelle che nel gergo chiamano le SREP, Supervisory Review Process, e degli stress test secondo dei criteri precisi stabiliti dalla BCE stessa. Quindi sostanzialmente dovranno esserci, per dirla in parole povere, annualmente degli esami fatti dall'autorità di supervisione nazionale anche sulle banche più piccole, però secondo i criteri della BCE, quindi quegli stress test, quelle operazioni di supervisione che al momento finora la BCE fa solo sulle banche più rilevanti, significative. Ma secondo lei è improprio immaginare, come pure avviene in alcune banche centrali, di sottoporre l'intera funzione di vigilanza a un assessment successivo da terzi indipendenti, ma non con l'ottica di capire di mettere sotto accusa, ma semplicemente per mettere a fuoco la lesson learned, perché magari delle decisioni di vigilanza ispirate a troppa prudenza o poca prudenza con quello che avviene nel mondo intermediario finanziario, dove non tutto è fermo ma tutto è dinamico, iperdinamico, si può imparare la lezione degli errori commessi. Lei non pensa che sarebbe meglio? Ma io credo che quello che ci sia più bisogno è veramente una disclosure verso il mercato. In questo senso anche la BCE qualche passo avanti lo deve fare. Mi spiego meglio. Altro che. Quando ci furono i famosi stress test del 2014, quindi nel momento in cui la BCE stava per entrare in carica come supervisore, i risultati degli stress test e anche le metodologie furono resi noti dalla BCE con molto dettaglio. Poi viceversa, nelle fasi successive, cioè nel 2016... Non più con altrettanto, diciamo così, ecco. Assolutamente no, anzi nel 2016 è successa una cosa molto strana, cioè l'EBA, l'autorità bancaria europea, ha fatto uno stress test su una cinquantina di banche e ha reso noto con molto dettaglio i risultati. Contemporaneamente sulle altre circa 80 banche significative la BCE ha fatto degli stress test e i risultati sono rimasti riservati. Esattamente. Allora, io ringrazio anche in questo caso dell'equilibrio del professor Baglioni, che però, come vedete, alla fine conferma la nostra impressione. Sì, siamo dei giornalisti, però ci poniamo la questione di un cambio di regole. Ci vuole più trasparenza e più informazione per imparare da tutte queste risorse bruciate. E non è se non per amore del mercato, del vostro soldo risparmiato e di quello degli investitori che lo chiediamo. Grazie al professor Baglioni, appuntamento domani alle 8:15 con me, Luca Terese, e naturalmente domani pomeriggio alle 16 di nuovo con la versione di Oscar.